Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Una cosa buona. Co-washing, vi dice qualcosa questo nome? Buongiorno intanto da Nicoletta Carbone. Il co-washing è un metodo dolce, anzi dolcissimo, per lavare i capelli. La ricetta sembra molto semplice: si mescolano due cucchiai di zucchero, uno di canna e uno bianco, con del balsamo senza siliconi. Lo zucchero non si deve sciogliere ma rimanere granuloso. Si applica tutto sui capelli bagnati, si lascia in posa per 5 minuti e poi si sciacqua. Chi l'ha provato assicura che l'effetto è fantastico: i capelli sono morbidi, setosi, luminosi. Io vi dico, volevo farlo stamattina, ma avendo due figlie in casa che si lavano i capelli continuamente, non avevo il balsamo. Ma forse tutto sommato meglio così, perché mi faccio dare un consiglio da Giulia Penazzi, cosmetologa e autrice di Cosmetici naturali fai da te, tecniche nuove edizioni. Dottoressa Penazzi, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Dottoressa, sembra un dolce intruglio questo co-washing. Secondo lei funziona e perché? Dunque, innanzitutto co-washing sta per conditioner only wash, quindi prevede l'utilizzo unico del balsamo come sostanza detergente al posto dello shampoo. Mm. Vediamo perché dovrebbe funzionare, perché è stato appunto consigliato questa mistura, diciamo. E lo zucchero dovrebbe agire come una sorta di scrub delicato che aiuta ad asportare in maniera meccanica la miscela di sporco grasso che si accumula a livello del cuoio capelluto. Sì. Mentre invece il balsamo è una formula chimica studiato con una miscela di tensioattivi, quindi sostanze detergenti. Ecco, rispetto alle sostanze che sono nello shampoo, sono tensioattivi diversi, perché questi tensioattivi del balsamo ovviamente hanno una minore azione detergente, quindi se lo vogliamo paragonare allo shampoo sono detergenti più delicati ovviamente, però hanno un'azione condizionante maggiore, perché il balsamo ci serve proprio, l'azione condizionante significa che aiuta a chiudere le squame del capello, renderlo più pettinabile e più lucido. Sì. Quindi rispetto allo shampoo diciamo che è sempre una miscela di tensioattivi, quindi ha una sua azione detergente, delicata, e un'azione più condizionante, no? Dice senza siliconi perché? Perché i siliconi sono sostanze di natura grassa essenzialmente, che su un balsamo utilizzato appunto come balsamo, quindi sul capello pulito già deterso, avvolgono la fibra pulita con un manto protettivo filmogeno che lucidano e migliorano la pettinabilità del capello. In questo caso, sfruttando l'azione dei tensioattivi delicati come detergenti, i siliconi andrebbero a ridurre l'azione detergente, l'azione sgrassante, perché vanno a formare questa pellicola. Quindi ecco, diciamo che è stato studiato in questo modo, quindi un'azione meccanica per togliere, per aiutare l'eliminazione dello sporco che si accumula sul cuoio capelluto, con questa blanda azione dei tensioattivi. A chi lo suggeriamo questa? Ma che io, tipo di capelli? Sicuramente a chi li deterge tutti i giorni, magari come utilizzo frequente, perché comunque non ha un'altissima capacità sgrassante e detergente, diciamo è più sul delicato. Capelli grassi, capelli secchi, indifferente? Io direi che va bene sul lavaggio frequente, ma forse più sul capello a tendenza un po' secca. Mm. Senta, lei però è una grande esperta di rimedi naturali e vorrei che tirasse fuori per i miei ascoltatori, in esclusiva per le loro chiome, una ricetta speciale, che così la sappiamo solo noi. Bene, allora vi svelo quello che utilizzo sempre io per la protezione dei capelli. Dunque, diciamo che l'utilizzo degli oli vegetali per la bellezza e la cura di pelle e capelli risale decisamente all'antichità. In Ayurveda, ad esempio, è una pratica importantissima e utilizzata sia nel massaggio che nella cura quotidiana. Mm. E le donne indiane si ungono costantemente i capelli e noi hanno questi capelli bellissimi, lucidi, setosi. Bravissima. Che invidia. Allora, questa formula di miscela, una miscela di oli vegetali fatta con un 80% di olio di jojoba, che è un olio molto particolare, perché a differenza degli altri, che sono delle miscele di trigliceridi, nome chimico, però ve lo dico senza spiegare, ma come nome chimico, in realtà la jojoba non è una miscela di trigliceridi, ma una cera fluida, quindi ha una struttura chimica molto diversa. Sì. Ed è molto più molto affine al film idrolipidico, si va a miscelare perfettamente e aiuta proprio anche la cura della pelle. Noi in questa ricetta lo utilizziamo all'80%, miscelato con un 10% di olio di semi di lino, sì, che è ricchissimo di acidi grassi poliinsaturi omega 3, omega 6, che aiutano a proteggere moltissimo anche qui la fibra capillare e il film idrolipidico cutaneo del cuoio capelluto, e con un altro 10% di olio di argan. Si trova tutto in erboristeria? Sì, si trovano generalmente tranquillamente in erboristeria. Costano molto? Beh, l'olio di argan è abbastanza costoso. Però ne mettiamo solo il 10%. Bravissima. Poi bisogna puntare comunque sul prodotto di qualità, perché teniamo presente che l'olio di argan è uno dei più ricchi di nichel, per cui per le persone che tendono a essere allergiche è meglio che spendano anche di più, però che siano certe di avere un prodotto di qualità. Ok. E noi prepariamo questa miscela, ce la possiamo anche, la possiamo tranquillamente conservare, perché è un prodotto anidro, quindi senza acqua, non ha problemi di conservazione microbica. E diciamo che delle due tende a irrancidire, quindi magari d'estate lo teniamo lontano da fonti di calore, perché l'olio di lino tende a irrancidire molto velocemente, essendo ricco di acidi grassi poliinsaturi, e quindi dopo ha quell'odore un po' di rancido che magari da fonti non è tanto carino. E poi lo utilizziamo prima del lavaggio, lo possiamo tenere anche tutta la notte, oppure un'ora, 15 minuti, anche 15 minuti sono sufficienti per migliorare la bellezza, la morbidezza, la lucentezza dei capelli. Diciamo che lo mettiamo in un punto preciso, partiamo da questo punto che vi spiego dov'è, è praticamente partiamo dal centro della fronte e andiamo a tre dita verso il centro della nuca, quindi tre dita dall'attaccatura dei capelli verso il centro della nuca. Qui c'è un punto particolare dove noi facciamo sgocciolare la nostra miscela di olio e iniziamo a massaggiare, perché questo punto è un punto estremamente stimolante, per cui chi ha caduta di capelli, problemi di seborrea eccetera eccetera, vari problemi del cuoio capelluto, massaggiando questo punto, sicuramente avendo un'azione stimolante, è molto importante. Facciamo quindi sgocciolare l'olio, lo massaggiamo molto bene in tutto il cuoio capelluto, quindi facciamo questa bellissima azione sia stimolante sul cuoio capelluto, ma anche andiamo a miscelare in questo modo tutto il nostro film idrolipidico, ricco dello sporco, ricco del grasso da asportare in maniera assolutamente fisiologica, e poi dopo incominciamo a pettinare l'olio sulla lunghezza dei capelli. Dopodiché ci facciamo il nostro shampoo e chi ci ferma più? Lo teniamo in posa quanto vogliamo e poi dopo facciamo il nostro shampoo tranquillamente, viene diciamo che si lava abbastanza bene, magari saranno necessari due shampoo, e questa miscela di oli è anche molto protettiva sul cuoio capelluto quando andiamo a detergere con uno shampoo, perché va proprio a ridurre l'azione sgrassante dello shampoo, quindi possiamo anche non temere di fare tranquillamente due shampoo. Allora, olio di jojoba 80%, olio di argan 10% e olio di semi di lino. Bravissima. 10%, massaggiamo, lasciamo in posa da un quarto d'ora in avanti, anche tutta la notte, e poi un bello shampoo e via. Dottoressa Penazzi, grazie e buona giornata. Grazie a voi e buona giornata. E intanto che voi mi dite cosa mettete sulle vostre chiome, il limone, l'aceto, la polpa frullata di mela, l'uovo, cerchiamo di capire di chi stiamo parlando, come è fatto e di che cosa è fatto un capello. Ciascun capello è formato da due parti, il bulbo o radice, il fusto. Il bulbo corrisponde alla matrice del capello, cioè a quelle cellule del follicolo che producono il pelo. Il bulbo non è visibile in quanto è contenuto nel follicolo. Il bulbo rimane però adeso ai capelli che cadono e può darci, esaminandolo al microscopio, importanti informazioni sullo stato di salute del capello. Il fusto del capello è una struttura morta, costituita da cellule completamente cheratinizzate che hanno perso il nucleo e le loro funzioni vitali. Queste cellule contengono alte concentrazioni di una proteina fibrosa molto resistente, la cheratina. La cheratina è presente anche a livello della pelle Ma la cheratina dei capelli, come quella delle unghie, è una cheratina molto più dura, in quanto contiene una grandissima quantità di cistina, un aminoacido ricco di zolfo. Tratto dal sito di Gitri, gruppo italiano di tricologia. Queste informazioni ci possono essere molto utili per capire come trattare e nutrire i nostri capelli e anche per imparare a osservarli con più attenzione, scoprire e spiegare anche eventuali segnali di malessere. Intanto saluto il dottor Fabio Rinaldi, buongiorno dottore. Buongiorno a voi. Dermatologo e presidente della Fondazione di Ricerca per la Patologia sui Capelli. Dottor Rinaldi, lo stato dei nostri capelli dice molto anche del nostro stato di salute generale, quindi intendo fisica e psicologica. Ci impresti quindi il suo occhio clinico? Partiamo, io direi, dai capelli spenti, opachi, senza tono, in una parola stressati. Quando non stiamo bene lo vediamo anche, no, dai nostri capelli. Se il corpo sta bene, quindi se il fisico sta bene, i capelli stanno bene. Ogni volta che i capelli sono più brutti, stressati, quindi vuol dire secchi, è successo qualcosa. Magari è successo banalmente che il clima ha rovinato solo il fusto, come voi dicevate, il fusto è una struttura morta, quindi a seconda del tempo assume umidità oppure il sole lo rovina. Ma non è una patologia, i capelli non stanno male. Ma se appena appena manca qualcosa di alimentazione, se gli ormoni non vanno bene, se c'è uno stress psicofisico che altera qualsiasi cosa del corpo, i capelli stanno male. Sono una delle prime spie di una situazione non perfetta del nostro corpo. Allora proviamo a capire come assicurare ai nostri capelli quello di cui hanno bisogno: un'alimentazione equilibrata, varia, povera di grassi saturi, piace, fa bene ai nostri capelli. Al contrario, come anticipava anche il dottor Rinaldi, carenze dietetiche, squilibri alimentari, stress, inquinamento, ma io aggiungerei anche il consumo di alcolici e fumo, sono dei fattori che ne possono minare la salute e di conseguenza anche la bellezza. E quindi oggi ci facciamo aiutare dalla dottoressa Sara Farnetti, internista nutrizionista dell'unità di patologia dell'obesità al Policlinico Gemelli, che è in linea con noi. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Dottoressa, i minerali sono importantissimi per i nostri capelli perché eventuali carenze ne cambiano l'aspetto e la struttura. Allora, a quali alimenti bisogna dare la preferenza e soprattutto quali non devono assolutamente mancare? Bene, i minerali sono decisamente importanti. Se pensiamo che il 4% del peso del corpo umano sono minerali, e figuriamoci per i capelli. Ma quali minerali e quindi quali alimenti? Sicuramente lo zinco. Lo zinco è un minerale utilissimo, un oligoelemento utilissimo per la crescita delle cellule germinative, e si trova nelle ostriche, nei semi di girasole, in tutti i semi oleosi, nei fagioli, nelle leguminose in genere, nelle carni e poi negli spinaci ricchissimi di vitamina C, o poi nel rame. Il rame anche è molto importante per la cheratinizzazione, quindi per la formazione della proteina, come dicevate prima, del capello. Il rame dove si trova? Nel cacao, e quindi nel cioccolato. Buono. Nell'avocado, un altro alimento molto gradevole per le preparazioni alimentari, e poi ancora in tutta la frutta secca, nell'uva, sultanina, oppure nel pesce, nei legumi. E un altro minerale molto utile è il magnesio. Il magnesio si trova, è ubiquitario, si trova in tutta la verdura cruda, ecco perché raccomandiamo mangiate frutta e verdura, soprattutto anche 5 porzioni al giorno, ma si trova anche nella frutta secca come le mandorle, 5-6 mandorle come snack è una buona idea, e poi ancora si trova nei cereali integrali, cerchiamo di mangiare meno possibile cereali raffinati. Molto importante anche il selenio è una sostanza che serve a degli enzimi che ci proteggono dai radicali liberi, quelle sostanze che poi ci fanno invecchiare, quindi è un anti-invecchiamento insieme allo zinco. Il selenio si trova nei broccoli e poi nel tonno, nelle aringhe, nel germe di grano, nella crusca. Senza mangiare la crusca basta utilizzare gli alimenti più integrali. E poi abbiamo il silicio. Il silicio è un negletto come oligoelemento, ma molto importante perché non lo dimentichiamo, ecco, serve alle unghie, serve alle ossa e anche ai capelli. Mangiamo i pesci tipo le soglie, le rombie, ne sono più ricchi, i frutti di mare, ma basta mangiare anche un sano piatto di fagioli e lenticchie, come la frutta secca. Silvia ci scrive: non posso telefonare perché sto lavorando, ma il mio consiglio è di incominciare da dentro. Io mangio tanto miglio in tutti i modi e funziona davvero. Dottoressa Farnetti, è una buona idea? Un'ottima idea, perché il miglio contiene primo tra tutti il ferro, che è un minerale forse il più importante. Parliamone, diciamo qualcosa del ferro. Il ferro è determinante per la forza dei capelli, per la struttura dei capelli. Ne contiene un po' di più il capello rosso, ma tutti i capelli ne contengono molto e hanno bisogno di ferro. Infatti una carenza di ferro, gli anemici per capirci, hanno dei capelli frequentemente molto deboli. E naturalmente la carne ricca di ferro, le verdure amare, ma anche il miglio. Il miglio è un cereale quindi particolare, proprio perché è ricco di questi minerali, di ferro come dicevo, ma anche di fosforo, di silicio, di magnesio, e poi contiene molte proteine rispetto agli altri cereali. È molto digeribile e va bene anche per chi ha l'intolleranza al glutine o chi ha addirittura la malattia celiaca, perché non contiene glutine, quindi è un molto, molto digeribile e anche molto utile. Questi e tanti altri consigli ve li daremo nel corso della nostra trasmissione, ma il consiglio quotidiano lo trovate sempre sul nostro Daily Lab, il nostro laboratorio del benessere. Andate sul sito www.radio24.it, cliccate sul Daily Lab e seguite i consigli dei nostri esperti. Essere e benessere. Dalle cure quotidiane ai segnali che possono individuare una sofferenza se la vostra chiama vi dà problemi, quindi non perdete la testa. Tutto c'è rimedio e quindi non perdetevi la puntata di oggi. Mohamed, buongiorno a lei. Buongiorno, scusami a tutti i dottori e come poi complimenti di trasmissione. E io c'ho un problema questo che già quasi un anno che in capelli si cadono, poi la forfora che non riesce a finirlo, shampoo quello, cioè uso ma non riesco a finirlo questo. Dottor Rinaldi, il problema della forfora è molto sentito dai miei ascoltatori. Sì, il problema persiste e soprattutto se come dice il nostro ascoltatore è così fastidioso, forse vale la pena andare da un dermatologo, perché l'infiammazione della pelle, quindi la forfora, niente di grave, però la pelle si irrita un po', potrebbe addirittura essere alla base anche di questa caduta, quindi favorire la caduta dei capelli. Dottoressa Farnetti, la dieta può aiutare le persone che soffrono, che hanno questo problema, a limitare il disagio? Bisogna individuare sicuramente la causa del disagio. Ecco, se la causa può essere quella di un eccesso alimentare, e è un'esperienza che possiamo fare tutti, se abusiamo di cibo, di alimenti grassi, di grassi non buoni, scopriamo che non solo il cuoio capelluto ma anche la pelle, no? Si ingrassa, ma non è un grasso sano quello che si deposita sulla pelle e sul cuoio. Allora in questo caso sicuramente modificare lo stile di vita e quindi l'alimentazione è in grado di migliorare non solo lo stato del capello ma anche questa sensazione che possono riferire appunto i nostri pazienti di un cuoio capelluto più grasso, e il capello invece non è nutrito proprio perché c'è uno squilibrio degli alimenti che uno introduce. Ci sono tanti modi di dire sui capelli, tante teste, tante idee. C'è chi li lava spesso, c'è chi invece cerca di limitare i lavaggi per timore di accelerare la caduta, c'è chi li taglia per rinforzarli. Dottor Rinaldi, l'effetto Prato funziona? L'effetto Prato non funziona, non quantomeno per averne di più o per ridurre la caduta. Magari si migliora il fusto, perché più diventano lunghi più diventano comunque un po' più brutti, ma non serve tagliarli per averli più sani o più belli. Quello che serve invece assolutamente, ne sono convinto, lo diciamo da anni, è che tanto più l'igiene è frequente, quindi con le possibilità di lavarli anche se i capelli sono lunghi, ma più frequentemente li si lava, più si toglie lo sporco che il cuoio capelluto forma, l'inquinamento deposita, riduce l'infiammazione, la dermatite seborroica, la forfa, quindi lavaggi il più frequentemente possibile. Se i capelli sono sani, non è lo shampoo che li fa cadere. Angela ci chiama dalla provincia di Foggia. Buongiorno. Mi hanno detto di raccogliere l'ortica con tutte le radici. Sì. E poi farli bollire e lavarli con questa lozione, diciamo, e poi fare degli impacchi. Dottoressa Farnetti, l'ortica, ci sono anche dei prodotti di detersione dei capelli proprio a base di ortica, delle lozioni, quindi è una pianta importante, amica della salute dei capelli. sicuramente una vegetale, perché io lo considero un vegetale, è un alimento molto medicamentoso per i capelli e per altre, diciamo, patologie, sì. Perché l'ortica è molto ricca di microelementi, elettroliti, sali minerali, soprattutto ritorniamo al ferro, sì. Abbiamo detto prima, per la caduta dei capelli il ferro, e quindi per rinforzarli, è molto molto importante, e quindi sarebbe anche utile nei soggetti anemici oppure chi ha fragilità delle unghie, quindi di tutti gli annessi. Quindi va lavata sotto l'acqua corrente fredda, così perde appunto quell'assetto urticante, e poi magari anche direttamente stufata nel tegame per essere consumata in mescolate ai primi piatti. Tutti abbiamo forse mangiato una volta il riso all'ortica. Allora, l'ortica si presta molto nelle preparazioni culinarie perché assomiglia a uno spinacio, ma è molto molto più delicata. Lo mangiano anche i bambini, lo faccio aggiungere ad esempio alle minestre dei bambini, nei minestri brodi vegetali che si fanno, perché li arricchisce molto di minerali ed è molto digeribile, non è affatto colitica, non dà fastidio affatto all'intestino. Quella stessa mattina, appena alzato, sentì che quel giorno mi sarebbe successo qualcosa di grande. Ma il motivo non era lo shampoo, che per te ha un effetto stimolante e anche afrodisiaco? No, perché io lo shampoo me lo faccio tutte le mattine e anche tutti i pomeriggi. Prendila così. Per quell'appuntamento passai 3 ore da Attilio Coiffeur. Decidemmo insieme per un taglio postmoderno. Non avevo incontrato Anna neppure per caso, per quante ricerche avessi fatto. Non mi riusciva di dimenticarla, anche se avevo tentato in tutti i modi, persino intensificando gli shampoo. Ero arrivato a 4 al giorno, dose letale per il capello. E allora andiamo al lavaggio e ci facciamo accompagnare da Aldo Coppola. Come si dice, un nome è una garanzia. Buongiorno. Buongiorno, grazie per la garanzia. Senta, allora andiamo al lavaggio. Ci aiuti a fare le cose per bene. Shampoo, basta poco, ma quanto poco e soprattutto puro o diluito? Allora, tanto va diluito, e secondo, bisogna imparare una cosa, che il cuoio capelluto va trattato come si tratta la pelle della faccia, cioè va nutrito, va disintossicato, si devono togliere le cellule morte, le squame, tutto, e lo shampoo deve essere appropriato al sebo che ha una cliente, ha una caratteristica che ha un cuoio capelluto diverso. La mia filosofia è quella, prima di non aleggiare i capelli, così non abbiamo bisogno di fare troppe cose nei capelli per recuperare i danni. Sì. E secondo, il cuoio capelluto va trattato esattamente come la pelle della faccia. Con delicatezza. Quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia. Lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre Aldo, ma il balsamo dobbiamo metterlo sempre? Ma possono evitarlo, per esempio ci sono dei trattamenti con cheratina e aminoacidi che non ammollano il capello e perciò lo tengono, come si dice, un po' una pellicola di copertura, e fa bene perché le dà una lucentezza senza evitare che si sfibri. Io vorrei aprire una brevissima parentesi sulle tinture. Noi donne amiamo, no, colorarci i capelli, soprattutto quando iniziano a comparire i primi capelli bianchi, anche se devo dire a me le teste grigie piacciono molto, ma questa è un'opinione assolutamente personale, non interessa a nessuno. Ma sulle tinte abbiamo sempre qualche problema, temiamo che in qualche modo rovinino i capelli. Allora Aldo, io le chiederei proprio di aiutarci a scegliere e a capire che cosa il nostro parrucchiere ci mette in testa. Allora, la tinta ossidante, quella che comunemente fanno tutti, prima depimenta il capello, poi colora il capello, e lì succede poi il problema che il capello è destrutturato e poi ogni 15 giorni hanno la riga di crescita, sì, che io trovo orrenda. E poi anche costosa, perché bisogna tornare. Poi è un salasso, grosso. Invece ci sono le colorazioni preossidate, a parte le miscele con gli enema, l'odinoce, sì, e yogurt, anche quelle se si accontentano delle correzioni che dà la natura. Una correzione è molto naturale. È ottimo perché non abbiamo chimica. E poi abbiamo i colori preossidati, vuol dire che non lavorano più con un ossidante ma lavorano come una camicia sul capello, non lo rovinano. E c'è un grande vantaggio, che quando la signora essa le pepe o comincia i primi capelli bianchi, mai avere l'ottica di dice io sono nata castana, rimango castana, è sbagliato. Invece si usa quel capello bianco come una micro mesh, la si fa bionda, la si fa nocciola, perché tanto non viene intaccato al pimento naturale. Quindi... e la signora non ha la crescita e ha un colore speciale suo, personale, solo per lei, senza rovinare i capelli. Questa mi piace molto. Ringrazio Aldo Coppola per essere stato con noi, buonissima giornata. Grazie a voi, arrivederci di nuovo. Essere e benessere. Laura ci chiama da Milano, buongiorno. Io ho questo problema, intanto vi ascolto sempre, quindi ho scoperto... Pensavo che fosse il problema che ci ascolta sempre. No. Ma il suo problema sono i capelli sottili? Sottili, e ho visto appunto che non ho ottenuto... Dottor Rinaldi, c'è qualcosa per i capelli sottili o per i capelli che... Sì, c'è, che bisogna capire come mai i capelli sono sottili o sono diventati sottili. Io credo che il massaggio possa fare bene in genere, perché riattiva la circolazione, può fare delle cose. Probabilmente bisogna fare qualche cosa di più specialistico. Dottoressa Farnetti, lei sui capelli sottili non ha un alimento, un'integrazione, una scelta nutrizionale che può in qualche modo far diventare i nostri capelli più corposi? Sicuramente le vitamine del gruppo B vanno garantite. Eccola. Allora magari, magari la nostra ascoltatrice potrebbe verificare se nella sua alimentazione non manchino gli alimenti che le contengano, oppure appunto il ferro che garantisce la struttura. Ma dottor Rinaldi, io vorrei anche parlare di una tecnica, non ci sono tecniche miracolose, ma di cui abbiamo anticipato anche con un suo collega dell'I, di una sorta di rinfoltimento, è giusto chiamarlo così, un aiuto ai capelli, anche quelli che non spuntano, a rinfoltirsi un po'? Sì, è giusto, è la tecnica del plasma ricco di piastrine o ricco di fattori di crescita, cioè sfruttando la nostra risorsa, che sono i fattori di crescita che ci tengono in vita, che ci autoriparano tutti i momenti, autoriparano la pelle, le ossa, qualsiasi organo che si rompe o si rovina tra virgolette, se noi prendiamo questo proprio plasma di ogni paziente ovviamente e lo mettiamo nel cuoio capelluto con delle tecniche, con delle punturine o un'altra tecnica per provare, facciamo una stimolazione di fattori di crescita che ha un effetto terapeutico in patologie importanti come l'alopecia areata, l'alopecia androgenetica o forme ancora più gravi, ma che addirittura ormai, esattamente come si usa nell'antinvecchiamento della pelle, si può utilizzare per migliorare proprio la struttura e addirittura in qualche caso riportare il colore dei capelli, perché i fattori di crescita danno la stimolazione naturale a nessun rischio, perché sono cose del proprio corpo, quindi nessun problema, per stimolare le cellule a vivere meglio. Quindi un trattamento di medicina rigenerativa, possiamo dire? Esattamente, noi la chiamiamo in dermatologia, si utilizza per tantissime patologie dermatologiche e non, la chiamiamo proprio dermatologia rigenerativa. Grazie dottor Rinaldi per essere stato con noi, buonissima giornata. Grazie. Ma i capelli non ci forniscono solo informazioni sul nostro stato di salute, ma sono spie anche del nostro benessere e sono molto sensibili ai nostri stati d'animo. In linea con noi la dottoressa Sara Viola, medico e psicoterapeuta. Dottoressa, buongiorno, bentornata. Che cosa vuole aggiungere? Devo aggiungere una piccola così precisazione tutta psico: anche l'umore, la felicità rende i capelli belli, la serenità, e in questo senso i capelli sono un po' come gli occhi, sono lo specchio dell'anima, come la pelle. Il capello dice moltissimo sul nostro stato d'animo. Noi abbiamo tanti modi di dire: mi strappo i capelli, dalla disperazione, un diavolo per capello, mi metto le mani nei capelli. Insomma, sembra che nelle nostre chiome si concentrino rabbia, tensione, talvolta disperazione, impotenza. E proprio perché c'è questo rimando? Proprio perché c'è proprio una connessione diretta tra lo stato d'animo e ciò che la nostra pelle e gli annessi della pelle, i capelli sono tra quelli, manifesta. Un altro detto è: mi fai venire i capelli ritti in testa. Cioè tutto quello che si traduce, che rappresenta un'emozione forte, si traduce nell'aspetto dei capelli, ma vale anche il contrario, cioè anche le emozioni positive rendono i capelli più pettinabili, più mansueti, più lucenti, più belli, quindi anche più seduttivi. Ma le donne sanno bene come prima delle mestruazioni, per esempio, il capello sia meno pettinabile, sì, la piega sia sempre meno bella, il colore prenda meno. Perché? Perché lo stato d'animo della donna, a parte la sua componente ovviamente biologica, cambia moltissimo. Nella fase premestruale noi siamo più irritabili, siamo più aggressivi, i nostri capelli sono molto meno belli. Quando sei innamorata, sei felice, sei contenta, anche la tua chioma sembra molto più bella, molto più ricca, molto più affascinante di quello che è davvero, proprio perché c'è un filo diretto tra l'emozione e la cute e la pelle. Dottoressa, lei lo sa che solitamente sono su unghie e capelli che noi scarichiamo lo stress. Mangiarsi le unghie, attorcigliarsi i capelli è proprio un gesto che a volte è consolatorio, a volte invece indica proprio uno stato di emotivo un po', no? Quando una persona è un po' a disagio. Perché c'è? C'è una condizione clinica che è la tricotillomania, nella quale le persone arrivano a tormentarsi i capelli al punto tale da avere vere e proprie chiazze di alopecia, cioè chiazze dove i capelli scompaiono completamente. E questa tricotillomania è tipica tra l'altro degli studenti, dei ragazzi giovani e a volte anche dei bambini. Quindi quando i bambini mostrano delle chiazze in testa prive di capelli, in qualche caso ci sono dei fatti infettivi o infiammatori, ma in altri casi la condizione è proprio legata a uno stress emotivo e al bambino che senza accorgersi si tormenta i capelli fino a strapparli. Dottoressa Viola, oggi abbiamo così affrontato questo tema, sono arrivate anche telefonate divertenti, ma a fianco mi sono arrivati tanti messaggi di ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici, che mi raccontano anche nello spazio di un SMS il loro disagio nel vedere che le loro chiome non sono più belle e fluenti come una volta. Insomma, un'ascoltatrice, Anna, mi scrive: mi sento così poco femminile anche se non ho un problema serio. Il binomio capelli seduzione è noto, però ecco, su questo aspetto fa riflettere. Devo dire che il rapporto che la donna ha con la propria immagine non è mai privo di qualche spina e spesso le donne sono dei pessimi giudici di se stesse. È vero che i capelli fanno parte della seduzione, così come delle mani curate, così come un bell'aspetto. È vero che accettare le modificazioni del tempo che passa anche per la chioma è molto difficile, però ricordiamoci sempre, non mi stancherò mai di dirlo, che tutto quanto viene sezionato e valutato così come sotto lo specchietto del chirurgo sembra sempre più brutto di quello che è. La bellezza io credo che sia sempre una visione d'insieme e sia una visione armonica. Quindi la donna che conta, che punta tutto sulla oggettività del suo aspetto fa un errore a qualsiasi età della vita. Anche una donna di 50, 60, 70 anni, che pure sicuramente ha una chioma diversa da quando ne aveva 20, se la sua porta, come diceva mia madre, se la sua chioma se la porta con stile, avrà comunque sempre una chioma seducente. E per oggi è tutto, un saluto e buon pomeriggio da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.